La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16.30 primi 40 secondi, in diretta qui da Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazio per l'ascolto. Vi dico subito di cosa parliamo oggi, perché vi chiedo di intervenire numerosi, questa volta numerosi davvero, perché oggi parliamo di ticket sanitario. Ticket sanitario, ricorderò un po' meno, più o meno come funziona, ma è una, come vedremo, è una geografia molto diversificata da regione a regione, e la domanda che vi porrò è: siete favorevoli ad aumentarlo? Molto semplice, se siete favorevoli ad aumentare, naturalmente dovete dire per chi, oltre quale soglia, secondo voi è già troppo elevato, oppure no, ha ragione chi dice che bisogna pagare di più per la sanità rispetto a quello che paghiamo oggi. So benissimo, e lo ricorderò a tutti, abbiamo una situazione, ripeto, molto diversificata da regione a regione, ma perché questa domanda oggi, a cui vi prego di rispondere dicendo la vostra all'800240024 e di mandarmi la vostra opinione al 349-238-6666. La notizia da cui partiamo, relativa a questo argomento, cioè alzare i ticket, rimodulare i ticket, ma comunque aumentare l'introito dello Stato da ticket sanitari, è stata sollevata dal Presidente della Corte dei Conti, Squitieri, in audizione parlamentare, e quindi ve la ritroverete sui giornali domani e la trovate già lanciata sui siti questa mattina. Vi leggo alcune delle parole pronunciate dal Presidente Squitieri. I prezzi di molti servizi offerti in Italia sono inferiori alle maggiori economie europee. La tendenza all'aumento per coprire i costi e garantire flussi di investimento significativi appare quindi un'opzione da considerare. La tendenza all'aumento dei prezzi appare quindi un'opzione da considerare in una fase storica di difficoltà per le finanze pubbliche, anche adottando politiche di selezione delle condizioni di accesso per evitare effetti regressivi indesiderati. Come vedrete, qui ci sono due temi posti dalla Corte dei Conti. Uno è quello che i ticket praticati oggi per le diverse prestazioni possono essere regressivi, cioè non sufficientemente modulati secondo il reddito e secondo l'ISEE, cioè il reddito equivalente, da una parte. Ma dall'altra, questa è la seconda esigenza che viene sollevata dalla Corte dei Conti, perché la prima è inequivocabile. Dice: comunque lo Stato deve fare più soldi, ragazzi. Sì, certo, si deve porre anche il problema della non regressività, quindi di una maggiore progressività, quindi chi ha più reddito deve pagare di più, ma l'obiettivo prioritario posto dalla Corte dei Conti è quello di aumentare gli incassi. E su questo poi, tra l'altro, il presidente Squitieri, un po' sorprendendomi perché non c'entra nulla, dice, beh, ha aggiunto una frase che dice: la prospettiva di una riduzione della pressione fiscale su famiglie e imprese ripropone la necessità di una revisione strutturale dell'intero sistema tributario. E qui Squitieri sembra dire, visto che il governo promette nel suo DEF ed è già nella legge di stabilità, nella parte pluriennale della legge di stabilità 2016, la rimodulazione generale delle aliquote con dei tagli sia alle imprese, promesso per il 2017 per IRAP e IRES, sia alle persone fisiche, promesso nel 2018 ma forse anticipato, ci ha detto Renzi, per l'IRPEF, beh, a maggior ragione bisogna aumentarla da qualche altra parte. Cioè non gli entra in testa la Corte dei Conti che lo Stato deve spendere meno per abbassare le tasse. No, la Corte dei Conti dice: no, visto che le volete abbassare bisogna rialzarle come introiti sulla sanità. E a questo punto ha anche aggiunto il presidente Squitieri: ci sono tre direzioni in cui muoversi. Un ampliamento della base imponibile, quindi significa devono pagare più soggetti rispetto a quelli oggi esentati, una revisione degli obiettivi redistributivi assegnati al sistema di prelievo, quindi questo significa riarticolare diversamente per reddito ISEE quanto si paga oggi, e poi un effettivo coordinamento della leva fiscale tra livelli di governo. Questo significa diminuire la differenza da regione a regione, che come vedremo è elevata. Io vi ricordo solo qualcuna dei criteri generali dei ticket, come funzionano i ticket nel nostro paese, perché poi abbiamo un ospite che in realtà di mestiere non fa altro che informare al meglio su tutti questi argomenti. Io come giornalista la considero una fonte primaria per tutto quello che riguarda la sanità, ed è il quotidiano che trovate sul sito www.quotidianosanità.it, ed è con noi, e di questo lo ringrazio, il direttore Cesare Fassari. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio a voi. Allora, io ricordo solo che nel nostro paese, stante le legislazioni vigenti in cui si interviene poi di anno in anno e così via, Noi abbiamo un'esenzione al ticket sanitario che vale per gli oltre 65 anni e con chi ha meno di 6 anni, con un'età minima che è alzata a 14 per quello che riguarda il ticket previsto in caso di codice bianco al pronto soccorso. Poi coloro che sono familiari o hanno pensione minima con età superiore a 60 anni e disoccupati a carico, per una certa soglia di reddito che è di 11.000 rotti euro per i due coniugi, e per ogni figlio a carico è maggiorato per 516 euro, cioè l'equivalente della minima, per così dire. Ci sono poi soggetti che hanno esenzioni particolari per reddito e che sono in ogni singolo comune a quel punto anche identificate, e poi ci sono alcune categorie: i non vedenti, i sordomuti, cioè le patologie croniche, i invalidi di guerra, civili con un certo livello di disabilità, cioè quello che compromette la capacità lavorativa di almeno i due terzi. In realtà, se andiamo a vedere le differenze che sono possibili per i ticket pagati sulle diverse prestazioni di servizio del nostro paese, otteniamo una situazione che è una vera giungla da questo punto di vista. Cioè, faccio solo alcuni esempi, poi lascio parlare il nostro ospite. Per una visita al pronto soccorso, dove è previsto un ticket nazionale di 25 euro per i casi non urgenti, lo ricordo, e in Italia si possono pagare anche ticket di 100 euro a Bolzano, mentre per esempio una prescrizione per esami e visite specialistiche può passare da una quota di 36 e pochi centesimi euro, ancora una volta a Bolzano e in Basilicata, però in Toscana si può pagare anche 118 euro. E idem per la geografia frastagliatissima dei ticket sui farmaci, e altrettanto dicasi per i ticket per gli esami e le visite specialistiche. Ecco, qui ripeto, c'è una normativa nazionale che prevede un ticket massimo sulle prestazioni per l'equivalente di poco più di 36 euro e una quota fissa di 10 euro, però le regioni poi hanno un margine più ampio di scelta, perché è entrato in vigore con le procedure di rientro coatto sanitario anche il sovraticket regionale per quelle che sono tenute appunto al programma vincolato di rientro dei costi sanitari. E se, e questo vi invito a guardarle su quotidianosanità.it, mettete in comparazione regione per regione il ticket fisso nazionale, l'applicazione del super ticket, il costo aggiuntivo del super ticket e il costo massimo, troverete delle differenze che sono veramente fortissime, per così dire. Perché per esempio il costo del ticket sulla specialistica ambulatoriale può arrivare il ticket della specialistica a 200,2 euro in Lombardia, in provincia di Bolzano non supera i 16,6 euro, cioè siamo in presenza di differenze abissali. Quindi il criterio, se si seguono le parole del Presidente della Corte dei Conti, è: ma incassare di più lo Stato? Ma soprattutto come, visto che poi le regioni hanno forbici così elevate? Allora, direttore, lei come le legge innanzitutto le parole della Corte dei Conti stamattina? Ma le leggo come un invito a rivedere il sistema, perché in realtà la Corte dei Conti era già intervenuta pochissimi giorni fa, quando ha presentato la relazione sull'analisi della spesa pubblica, con parole molto nette sul ticket, dicendo due cose sostanzialmente. Una: stiamo attenti a non elevarli troppo, perché poi l'effetto è esattamente il contrario. Le ASL non incassano più il ticket, perché al cittadino conviene andare direttamente al privato. Quindi io aumento una ipotetica entrata pubblica per poi switcharla di fatto nel privato. La cassa dell'ASL resta vuota, il cittadino sceglie quello che costa meno, giustamente va nel privato. Quindi primo consiglio: attenzione, il ticket non va alzato senza ragionamento, ma va rimodulato. Il consiglio della Corte è... Aspetti, sempre su questo le faccio un altro esempio che mi viene da il rapporto 2015 sui ticket dell'Osservatorio Civico sul Federalismo in Sanità, quello che ha curato la cittadinanza attiva, Tribunale per i diritti del malato. A me ha lasciato un po' proprio perplesso quando è uscito a febbraio, però secondo le loro elaborazioni non c'è solo l'effetto che lei ha appena citato, cioè quello ad alcuni conviene andare direttamente nel privato se sono troppo elevati. C'è anche un effetto sulla parte opposta della piramide sociale, cioè quella più basso reddito, perché loro hanno lanciato questo rapporto sulla base di loro elaborazione dei dati, secondo i quali addirittura un italiano su 10 non ce la fa a pagare il ticket e rinuncia a curarsi. È fondato secondo lei anche questa osservazione? Ma in alcune zone del paese probabilmente questi casi si verificano, perché in effetti ci sono diverse analisi che evidenziano che c'è stato un calo di prestazioni sanitarie da parte delle classi meno abbienti della popolazione. Le causalità possono essere diverse, probabilmente il ticket in qualche misura può incidere, perché effettivamente, ad esempio, laddove io non ho un'esenzione e incappo in una patologia per la quale ho necessità, anche se per un periodo diciamo circostanziato, ma una necessità di fare tante analisi, di prendere diversi farmaci, l'importo del ticket, che magari visto una volta può sembrare alla portata di tutti, può diventare oneroso. Il cittadino magari sceglie di non curarsi. Questa ipotesi del Tribunale non la scarterei a priori, certamente sono delle ipotesi e non esistono studi così mirati che ci possono dare una spiegazione certa. Però rimodulare, se capisco bene, dottore, significa diminuire la forbice delle differenze, ma come prima cosa però Squitieri ha detto aumentare le entrate. I dati che ho sul 2014, questi sono corte dei conti, se sommiamo diversi ticket, cioè farmaci, prestazioni sanitarie e compartecipazioni, il totale delle entrate per la sanità pubblica era di pochissimo inferiore ai 3 miliardi l'anno, conferma? Sì, gli ultimi dati sono del 2015, per l'appunto, sono usciti a fine marzo e danno 2 miliardi 857 milioni tra farmaci, specialistica, pronto soccorso. E il problema della rimodulazione, in realtà, a mio avviso, non è tanto sull'onere del ticket va rimodulato per evitare quell'effetto boomerang, diciamo, ma il vero problema è che il nostro sistema di esenzione, che lei citava all'inizio, ormai fa buchi da tutte le parti, considerando che è un sistema in vigore da più di 20 anni. Non è mai stato rivisto, perché quella famosa esenzione di 65 anni e 14 anni che era legata al ticket che oggi sono 35 euro, lei pensi che quei 35 euro non sono altro che la metà delle 70.000 lire, c'erano ancora le lire, che fissarono la prima volta il ticket sulla specialistica. Quindi stiamo ragionando ancora su un criterio di esenzione ante euro. Ricordiamo che più o meno il numero di soggetti, sommando le diverse categorie di esenzione, è quasi 12 milioni, insomma 11 milioni e 8 più o meno. Sì, ci sono diverse stime, il numero di per sé potrebbe essere anche corretto, in realtà non è mai stata però rivista con una logica basata sul reddito questo criterio di esenzione, perché in realtà, considerando che il ticket lo si voglia chiamare ticket, lo si voglia chiamare come correttamente si dice in italiano compartecipazione alla spesa sanitaria, dovrebbe essere come qualsiasi altra compartecipazione modulata in base alle proprie possibilità, perché è evidente che appunto 30 euro di ticket per fare un pacchetto di analisi per qualcuno può sembrare nulla, per altri è un costo. Allora, un secondo solo, iniziamo a sentire gli ascoltatori che ci portano poi elementi di riflessione su cui ulteriormente sentire anche le sue considerazioni. Cominciamo con Marco da Milano, di cui leggo che è un medico ospedaliero. Pronto? Pronto, mi dica Marco. Pronto, buongiorno. Io sono un medico ospedaliero, sto andando in ospedale in questo momento. Buon lavoro. Sto tornando dopo. Grazie. Io sono contrario all'aumento del ticket. Sono contrario perché alla fine, come diceva l'intervento precedente, chi non ha un'esenzione si trova malato, è quello che paga di più. Non è concepibile la stratificazione così a macchia di leopardo di un ticket in un paese che dovrebbe essere tutto uno, non ha un motivo, ma bisognerebbe iniziare a ragionare veramente non in termini di spending review, che sono belle parole, ma veramente di quello che si può fare. Io le faccio un esempio molto semplice. Se io mi sono accorto che per un presidio che viene buttato, vengono spese in ambito ospedaliero circa 50.000 euro all'anno, e utilizzando un altro presidio comprato su eBay, perché ho fatto i conti io, se ne spenderebbero 35.000, se un medico ospedaliero, dopo che esce dalla sala operatoria, fa questi conti, gli amministratori si devono fare qualche domanda. Beh, siamo nell'ambito di un terzo del risparmio, quasi, quindi non proprio poco. Ecco, cioè non lei consideri che io lavoro in un ambito, io faccio il chirurgo, in un ambito dove abbiamo una sofferenza strumentale di apparecchi che sono vetusti, eccetera, e che per esempio un apparecchio inseguo per fare la chirurgia mini-invasiva lo inseguo da solo 7 anni. In 7 anni, beh, insomma, i fondi, e le dico la cifra, va dai 40 ai 50 mila euro, questi fondi li avremmo tirati su risparmiando i 15 mila euro che ho trovato io. Altro che apparecchiature up to date tecnologicamente. Vabbè. Torniamo tra un minuto con altra telefonata e direttore del quotidiano Sanità per ragionare su come intervenire su questa materia. Alzare gli introiti dello Stato o rimodulare? Perché di rimodulare ce n'è bisogno, questo ce l'ha spiegato e confermato Cesare Fassari, che è con noi. Tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta. Allora, il tema di cui stiamo parlando è aumentare gli introiti pagati dai cittadini di compartecipazione sugli oneri della sanità, punto numero uno sollevato dalla Corte dei Conti stamattina. Secondo, rimodulare, perché in effetti c'è un problema di differenziazione eccessiva tra le diverse regioni, tra i diversi ticket. Abbiamo visto come gli esentati siano tanti, i criteri dell'esenzione siano fermi da decenni, pre-euro. Sentiamo ancora una telefonata e poi un'altra ancora, ma intanto Livio da Firenze. Prego, Livio. Sì, buongiorno, buongiorno innanzitutto. Sì. Comunque è un boomerang quello del ticket, perché per esempio qui in Toscana l'altro giorno ho dovuto fare una radiografia al torace, ticket 37 euro, privato 33 euro. Ah, quindi come conveniva al privato? Come? Conveniva al privato, quindi? Già conviene il privato, non vedo il motivo perché dobbiamo aumentare i ticket ancora, Ah no, ho capito, esperienza di Livio, interessante. La Toscana è tra le regioni quella che con il governatore Rossi da 2 anni dice io voglio far pagare molto di più i ricchi, lo ricordo a tutti. Achille dalla provincia di Como, Achille, prego. Sì, ciao Oscar, molto volentieri ti saluto. Anch'io. Volevo dirti che io posso essere d'accordo sull'aumentare gli introiti nel momento in cui si applicano i costi standard e finiscono le ruberie nella sanità. Da quel momento io sono d'accordo di confrontarmi e anche avere un'incidenza maggiore sulla compartecipazione, ma fino a quel momento si devono solo vergognare di parlare di queste cose. Grazie anche per l'opinione di Achille. Torniamo con il direttore di Quotidiano Sanità. E la domanda però che viene a questo punto è: d'accordo che c'è la riforma della Costituzione in arrivo, su cui poi faremo un referendum autunnale, su cui Renzi si gioca tutto e su cui si vengono riaccentrate alcune competenze, però le competenze che vengono accentrate sono in termini sulle infrastrutture strategiche, sulle scelte economiche nazionali di trasporto e così via. La sanità resta saldamente regionale. Com'è possibile, secondo lei, e immaginabile una rimodulazione molto profonda della forbice troppo estesa dei ticket sanitari delle diverse modalità tra diverse regioni a Costituzione, che resterà anche nella nuova formulazione però con la sanità regionale, secondo lei? Ma dunque, qui mi permetto di correggerla leggermente, perché in realtà il nuovo titolo quinto della Costituzione ha una profonda innovazione per la parte sanitaria, perché ha inserito una postilla, la lettera M del titolo quinto, dove sono i poteri che restano a livello centrale, sì, le politiche della salute. Nel 2001, con la riforma del titolo quinto di allora, questa parte non c'era, lo Stato rimaneva solamente la determinazione dei livelli essenziali di assistenza. Ma qui allora, aspetti un secondo per chiarire, io questa cosa l'avevo vista, ma credevo, ma mi sbagliavo evidentemente, quindi la ringrazio due volte, credevo che per politiche della salute ci fossero gli indirizzi generali in capo al Ministero della Sanità, cioè per esempio il patto per la salute che abbiamo visto l'anno scorso, eccetera, eccetera, senza intervenire negli attuali livelli, tra virgolette, di libertà per quanto riguarda il costo prestazioni. Invece no, lei mi dice che riguarda anche questo. Eh sì, riguarda anche questo, tant'è che conseguentemente hanno corretto l'altra parte, eliminando la legislazione concorrente in sanità che prima c'era, sì, e in prima linea nella concorrente c'era la Regione, cioè la Regione legiferava e dopodiché lo Stato poteva intervenire successivamente. Oggi è esattamente il contrario, lo Stato legifera la sanità nazionale e le Regioni resta la gestione e l'organizzazione. Ma allora sì, altro che, ha ragione, certo. Quindi se questa riforma sarà confermata, da questo punto di vista ritorniamo ad una forte centralizzazione non solo degli indirizzi ma anche delle scelte. Anche delle scelte, certo. Tornando ai ticket, se vogliamo, ma in realtà come dicevamo prima, il vero problema a mio avviso è che, fermo restando che si voglia mantenere questo ticket, perché io butto lì una provocazione, parliamo del 2000 se non vado errato, era ministro della salute Umberto Veronesi, quando fece questa esperienza di un anno di governo. Uno degli atti che forse vanno ricordati di quel velocissimo dicastero fu l'abolizione dei ticket. Lasciò solamente a livello nazionale un unico ticket, quel famoso ticket delle 70.000 lire, oggi 35 euro. Ma abolì tutti i ticket farmaceutici, che all'epoca erano quelli più salati, agivano addirittura in percentuale sul prezzo del farmaco, quindi più costava il farmaco e più pagavi di ticket. Cosa successe? Che però, dato che le regioni in ogni caso avevano necessità di cassa, con degli escamotage legislativi successivi, nel giro di 4-5 anni dal 2000, il panorama dei ticket cambiò di nuovo completamente, peggiorandolo, perché quantomeno prima avevamo un unico livello di ticket in tutta Italia, dopo siamo arrivati alla giungla, come giustamente l'ha definita all'inizio della trasmissione. Io non abbandonerei del tutto il ragionamento, la butto lì. No, chiarissimo. Si è sempre parlato di, per dire, da una decina d'anni è ICI sì, ICI no, IMU come si chiama adesso. Perché si dice tutti gli italiani hanno una casa, se c'è una legge popolare per abbassare il peso fiscale, sicuramente se esento la prima casa, oltre che guadagnare in termini di voti, che fino ad oggi sembra che questa equazione abbia funzionato, in ogni caso do effettivamente faccio un bello sconto fiscale all'80% degli italiani. Il ticket onestamente è una di quelle tasse forse più odiose, perché noi non dimentichiamo che questa sanità pubblica è in ogni caso già pagata dalle tasse degli italiani. Esattamente, no, io sposo in pieno, non lo sapevo che la pensasse così. Io sono proprio un sostenitore di quello che sta dicendo, anche perché sono convinto che ci siano margini come quelli testimoniati anche dalle telefonate eccetera. Aspetti, do conto che moltissimi sms li raccorpo in uno che leggo di Giovanni, di un ascoltatore Giovanni, che dice: buongiorno, nella splendente Lombardia Eco Color Doppler senza esenzioni euro 58, però con attesa di più di un mese e mezzo, nella stessa struttura euro 70 privatamente giorno dopo. Ecco, siamo già invogliati dai fatti a non usare il Servizio Sanitario Nazionale, però naturalmente, Giovanni, senza per questo trascurare il fatto che esiste chi per quei 12 euro non è proprio una differenza da poco, ecco, perché ci sono come, eh? Umberto da Verona, prego Umberto. Pronto? Eccoci Umberto, dica. Io veramente, scusami, ma non so da dove cominciare. Decidi. Paghiamo il 70% su quello che guadagniamo. Aumentare il ticket, aumentare gli introiti dello Stato. Ma io stavo per finire nel fosso, sono in macchina, stavo per cadere nel fosso. Ecco, non cadere nel fosso, mi raccomando, io mi limito a riferire l'opinione del Presidente della Corte dei Conti, che è molto preoccupato dal fatto che se ci tagliano IRES, IRAP e IRPEF diminuisce il gettito dello Stato. Fino a questo momento io devo ricordarvi che al netto degli interventi prossimi, sentiremo da Renzi, nel quadro programmatico pluriennale, tra il 2016 e il 2018, quindi 2016-2017, in tre anni il totale delle entrate pubbliche aumenta di 71 miliardi, quindi non sarei così preoccupato se fossi nel Presidente della Corte dei Conti, però i numeri sono questi. Ancora, riesce per Francesco Arezzo a essere brevissimo? Per Francesco? Ci provo, buonasera Giannino. Sì, dica. Allora, brevissimamente, io 2 settimane fa ho fatto analisi del sangue, una ventina di parametri, 170 euro di analisi. Sì. Forse provo a dare un modo in cui sono finiti questi soldi. faccio la coda dal dottore per farmi scrivere 20 parametri su un foglio di carta, porto il foglio di carta al CUP dell'ospedale, dove dal foglio di carta me li rimettono dentro a un computer. Ho capito cosa dice, cioè le procedure non sono certo up to date. D'accordo, intanto grazie al direttore di Quotidiano Sanità, vedremo come va avanti questa storia, continuate con Radio 24.